Welcome, Federico. All servers are ready. The security system is loaded. Ed eccoci di nuovo su Medium, il podcast su Netrunner. Oggi si dovrebbe sentire leggermente meglio l'audio, questo perché dovrei aver risolto tutte le problematiche che ho avuto nello scorso podcast. In più, si sa, io sono più un corporativo, quindi chiaramente ho lasciato gli esperimenti alla puntata sui runner per poter essere impeccabile quando c'è la puntata sulla Corp. Bando alle ciance, parliamo subito di quello che ci interessa, Netrunner. Partiamo con la solita rubrica sul deck building. Enigma, how to build a perfect R&D. Oggi vorrei parlare di come distribuire le agende all'interno del proprio mazzo e quali sono i criteri con cui di solito si fanno le scelte. Ora, nella maggior parte dei mazzi troverete 10 agende a costo 2. C'è un motivo per questo. L'idea di fondo è che l'obiettivo sia per la Corp avere agende che costano poco e che quindi nella maggior parte dei casi vengono installate nel turno stesso in cui vengono scorate. In più, questa distribuzione di 10 agende all'interno del mazzo permette alla corporazione di obbligare il runner ad ottenere almeno 4 agende per poter raggiungere la vittoria. Ma non in tutti i mazzi questo criterio va rispettato. In altri mazzi troviamo invece distribuzioni un po' più anomale, ovvero principalmente un paio di tipologie di agende, quindi 6 carte agenda tutte quante da 2 punti agenda, quindi che ti danno 12 punti agenda complessivi, 2 carte agenda da 3 punti agenda che ti danno altri 6 punti complessivi e altre 2 carte da 1 punto, che solitamente sono delle agende che sono pensate per essere portate a punti ma poi consumate. Sto parlando per esempio di Hostile Takeover, che probabilmente viene consumata da Archer, oppure False Lead, che viene consumata per poter togliere 2 click in un momento critico alla runner. L'unica agenda che si gioca da un punto agenda che invece non viene consumata o perlomeno viene consumata meno, quindi non viene forfettizzata, è Breaking News. Breaking News viene utilizzata semplicemente perché costa poco e la si può scorare direttamente dalla propria mano. C'è anche poi un'ulteriore configurazione che possiamo andare a considerare, e cioè la configurazione del mettere meno agende possibili all'interno del mazzo. Ad oggi il minimo è 6 agende da 3, che complessivamente fanno 18 punti, in combinazione con l'identità di MBN, che chiede solamente 40 carte come minimo, quindi ci permette di poter mettere solamente 18 punti agenda nel mazzo. Non so in quale trampalato mazzo potrebbe andare una sorta di 6 agende complessive da 3 punti, ma probabilmente ne vedremo qualcuno girare. Ora, il criterio che sottende alle agende distribuite in maniera non regolare è proprio quello di riuscire a massimizzare, scorando solamente 3 agende, arrivare subito a 7 punti. Chiaro che se io scoro 3 agende ma sono tutte 3 da 3, chiaramente ho fatto 9 punti, ma ho vinto tanto quanto avevo vinto anche prima se avessi scorato 7 punti. Quindi l'idea è quella di portare a punti da subito un'agenda da 3 e poi pian pianino portare a punti le altre 2 da 2. In questa maniera si riesce a arrivare con 3 agende subito alla vittoria, evitando però che la Corp possa fare lo stesso, perché chiaramente nel momento in cui noi abbiamo solamente 2 agende da 3 punti agenda all'interno del mazzo, l'idea è che noi le proteggiamo in maniera tale da portarle a punti. Se invece l'avversario va a pescare le altre nostre agende, troverà solamente agende da, principalmente troverà agende da 2, perché ce ne sono 6, e altre 2 da 1, che servono come abbocco per esempio per il runner, Ora, io ho visto questa configurazione giocata in alcuni mazzi, ma principalmente in Jinteki, che ha l'opzione anche di farti flatline e quindi non ha paura che tu con tre carte riesca velocemente ad andare alla vittoria, perché l'idea è quella di dire: se tu vieni a prendere la mia agenda potresti rischiare di morirci, e quindi io a me non mi interessa se è un'agenda da 3 e da 2, tanto se poi ti uccido non è un problema. Capostipite della politica delle 10 agende da 2 punti è sicuramente Hasbyroid, HB per gli amici. Con Hasbyroid chiaramente la tecnica del Fast Advance ci dà la possibilità di portare a casa praticamente tutte le agende tranne Private Security Force, che ha bisogno di stare lì a macerare per un pochettino prima di poter essere portata a punti. Anche se ho visto in alcuni casi anche agende da 5 essere scorate in un unico turno. Poi magari vi spiegherò in futuro come si riesce a fare. Bene, questo è un po', diciamo, sono i criteri che sottendono alla distribuzione delle agende. Se c'è qualcosa che non ho detto e che vi viene in mente che volete dire, mi raccomando, fatevi sul forum di netrunner.it. Se invece volete mandarmi un'email, potete mandarmela a federico.latini@gmail.com, e sentitevi liberi chiaramente di proporre e di anche contestare quello che dico all'interno del podcast. Non sono sicuramente il depositario della conoscenza assoluta. Via, passiamo adesso alla carta del giorno. Tollbooth, analyzing the data from every perspective. Visto che abbiamo parlato di agende, la carta del giorno di cui vi parlo è Project Vitruvius. È un'agenda, chiaramente, di Hasbyroid. Questa agenda innanzitutto ha un costo di avanzamento 3 per ottenere 2 punti agenda, che è la migliore conversione che abbiamo visto sinora. Potrebbero uscire delle conversioni un'agenda per un avanzamento solo, ma ho dei dubbi sul fatto che verranno mai messe in circolazione. Ad ogni modo, questa agenda, oltre a questa bellissima caratteristica, ha anche la possibilità di dare dei poteri. Ora, io la giocherei anche se non avesse poteri, io la giocherei anche se fosse solamente una 3x2 senza nessun altro bonus. In più, avendo un potere anche particolarmente forte, c'è un motivo ulteriore per giocarla, ovvero se avanziamo questa agenda oltre il suo limite, possiamo ottenere che la carta ci dia un'abilità da attivare, ovvero per ogni avanzamento oltre il terzo che noi abbiamo fatto, ci dà la possibilità di poter rimuovere una carta dall'archivio e mettercela in mano, quindi metterla nell'headquarter. Questa abilità è molto sottovalutata, soprattutto da HB Fast Advance, che ignora qualsiasi possibilità che venga avanzata un'agenda più del suo limite, in virtù del fatto che vuole farlo tutto nello stesso turno. Però ci sono in realtà dei momenti, delle occasioni in cui un'agenda può essere avanzata senza essere portata, senza essere scorata subito, e danno in più, quindi nel turno dopo poterla avanzare ulteriormente fino magari, che ne so, a 5 avanzamenti, per poter avere 2 segnalini, e questi 2 segnalini potrebbero fare la differenza fra la vittoria e la sconfitta. Principalmente questi 2 segnalini vengono utilizzati contro Noise per poter togliere le agende nel momento in cui lui entra nell'archivio. Lui ci ha trasciato molte carte, sappiamo che alcune di queste sono delle agende. Lui entra nell'archivio, quindi spende un click per farlo, e noi utilizziamo l'abilità e rimuoviamo tutto quello che c'è di utile per lui. Ma può essere utilizzata anche in altri modi. Per esempio, siccome HB utilizza Biotic Labor, se abbiamo almeno 19 soldi possiamo mettere giù un'agenda da 5. Con il primo click mettiamo l'agenda da 5, con il secondo click giochiamo Biotic Labor dalla nostra mano, e quindi abbiamo di nuovo 3 click a disposizione. Come usiamo il nostro terzo click? Rimuoviamo un segnalino, prendiamo di nuovo Biotic Labor e la rigiochiamo andando fino a 4 click. Lo facciamo di nuovo, la rigiochiamo di nuovo e abbiamo speso quindi complessivamente 12 soldi e abbiamo addirittura il nostro quinto click. Con i rimanenti 5 soldi avanziamo la nostra priority requisition, quindi un'agenda da 3 punti agenda, quindi che costa 5, che può essere priority come può essere executive retreats, e quindi portiamo a casa in un unico turno un'agenda da 5 e plausibilmente avendo speso tutti i nostri soldi, i nostri 19 soldi, portiamo a casa anche la vittoria, altrimenti saremo dei pazzi. Ad ogni modo, ecco, questi sono modi molto interessanti con cui si può utilizzare il potere speciale di Project Vitruvius. Bene, andiamo a vedere che cosa c'è di nuovo. A questo punto parliamo tutta la puntata di Asbioroid e quindi andiamo a vedere cosa c'è di nuovo anche per loro con l'avvento di Creation and Control. Breaking news. The future is in your hand. La carta di cui parliamo oggi è una carta che mi ha fatto cascare la mascella la prima volta che l'ho letta. Si tratta di Director Haas. È un asset, executive, il sottotipo, costa 3 da rezzare, hai un click addizionale da spendere ogni turno e qui la mascella è cascata. Ma poi ho continuato a leggere, se il direttore Haas viene trashato quando si accede a lui, aggiungi il direttore Haas al punteggio del runner e conta come 2 punti agenda. Attenzione, non solamente quando te lo trashano da quando sei in gioco, ma anche se te lo beccano dai central server. Quindi è vero che se la metto giù protetta ho un click in più e probabilmente la partita prende una piega molto interessante per Asbioroid, però effettivamente stiamo parlando del rischio di consegnare in mano al runner molte più agende di quelle che già sono presenti nel nostro mazzo. Quindi mi sembra una di quelle carte bellissime dove la tentazione di giocarne 3 pair è altissima, perché comunque è un asset molto interessante, ma il controbilanciamento della, diciamo, la sfiga che tu accetti di ricevere a fronte di questa carta molto forte nel mazzo, secondo me è ancora più grave rispetto a quello che può essere il vantaggio. Da notare che, essendo il direttore Haas il vero e proprio direttore di Asbioroid, il suo costo di influenza è 5. Diciamo che hanno il suggerimento è mettetela solamente nei mazzi Asbioroid, a meno che non siate dei pazzi completi. Bene, io personalmente conto di farci dei mazzi incentrati su questa ragazza che dirige HB. Probabilmente saranno dei mazzi vinci tutto o perdi tutto, cioè mazzi molto molto spinti sul fast advance con l'obiettivo subito di portare a casa il risultato installando per esempio, che ne so, rezzando 2 Director Haas in un unico turno e poi portando a casa le agende in un attimo. Oh, attenzione, no, stavo facendo un errore. Chiaramente è un personaggio unico, quindi non se ne possono rezzare 2 in un unico turno. Al massimo puoi avere un click in più da questo asset. Ad ogni modo, sì, è una carta molto forte. Probabilmente vedrà qualche pazzo, lo vedremo giocare con una carta di questo genere. Bene, infine parliamo del metagame. Hedge Fund, the meta, unveiled. E visto che abbiamo parlato sempre di HB, continuiamo a parlare di HB anche per quanto riguarda il meta. Fra parentesi, HB è veramente il protagonista del meta attuale, quindi mi sembra giusto parlare di lui. Non tutti sanno che di HB esistono 2 versioni Fast Advance. Esiste la HB Rush e HB Fast Advance. C'è una leggera differenza fra i due, ovvero entrambi giocano Biotic Labor, però il Fast Advance ha l'obiettivo di scorare tutte le proprie agende attraverso il Biotic Labor, quindi lo deve ripescare attraverso gli Archived Memory, andare a utilizzare quindi Biotic Labor per tutte le sue agende. Quindi non usa nessun server remoto protetto da ICE per poter coprire le proprie agende, non ne ha bisogno a tutti gli effetti. Chiaramente i server remoti servono però poi per andare a coprire e proteggere i propri asset di denaro, perché tutto questo lavoro di Biotic Labor e Fast Advance costa molto. In più, Fast Advance in un certo senso sacrifica la possibilità di fare tanti punti inizialmente per la sicurezza di farli. Al contrario, HB Rush prevede l'esistenza di agende da 3 o anche agende da 2 da scorare all'inizio, quando il runner non ha la possibilità di entrare nell'unico server che tu hai costruito. Quindi lascia a disposizione, quindi espone, lascia alla possibilità del runner di poter entrare e andare a prendere delle agende, a fronte però di un vantaggio notevole. In primis, Project Vitruvius può essere portato a 2 segnalini e quindi può creare tutta quella serie di combinazioni che dicevo prima, e in secondo luogo dà la possibilità alla corp di poter spendere poco per poter scorare le sue prime agende, avendo un vantaggio notevole dal punto di vista economico in un secondo tempo. Sono due scuole di pensiero, chiaramente sfumature di un mazzo che funziona bene sempre, o comunque che è molto valido. Io delle due preferisco HB Rush, quindi non quella senza gli Archived Memories, la considero più solida e la considero anche più in grado di rispondere a situazioni del momento, per esempio non subisce troppo runnate con Demolition Run su Headquarter che prevedono la distruzione di più di una carta dalla mano, non teme di avere più di una agenda in mano perché può metterla giù e lasciare maturare, come dire, l'agenda senza problemi. Insomma, mi sembra più versatile HB Rush. Ad ogni modo, come sempre, siete liberi di smentirmi. Vi lascio quindi con questi due mazzi, andatevi lì a guardare, andatevi a guardare le differenze magari sulla rete di quello che possono essere, come vanno giocati. Per oggi è tutto, ci sentiamo alla prossima puntata. Ciao! I've seen things you people wouldn't believe. The system will now go into maintenance mode. Thank you for using our services.